Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci arrivati al nuovo appuntamento con l'Adico, oggi con il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo oggi di un fenomeno che fosse tipicamente italiano, perché se guardiamo come sempre al di là dei confini va decisamente in modo diverso, ed è l'utilizzo dei mezzi pubblici. Noi non siamo così bravi a quanto pare. Sì, questa volta a scattare la fotografia dell'eco performance cittadine è stata Legambiente, che con un'indagine sull'ecosistema urbano ha voluto un pochino identificare sia quello che è la situazione dei mezzi pubblici, sia anche la situazione delle piste ciclabili, delle piste dei viali pedonali, e soprattutto anche di come le persone utilizzano meno i mezzi pubblici e di quanto verde pubblico c'è nelle città. E certamente anche qui, come al solito, i responsi non sono mai stati positivi, o meglio, non vanno mai nella direzione in cui si vorrebbe auspicare che vadano. Questo riguarda evidentemente soprattutto le grandi città, dove il trasporto pubblico, non solo su gomma ma anche su rotaio, metropolitana, lì dove c'è, ha o potrebbe avere un'incidenza molto forte, però non va così bene, insomma, per tanti motivi. No, non va assolutamente bene, e anche qui in confronto con le principali città europee l'Italia purtroppo si trova sempre agli ultimi posti. Perché cosa accade? Accade che sostanzialmente in questi anni, proprio come hai detto te, complice anche la crisi, ma complice anche quelli che sono i servizi e lo stato di carenza che i mezzi pubblici hanno, i cittadini usano di più l'auto, e questo certamente non va bene per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, ma poi anche per quanto riguarda quelli che sono gli interventi come le piste ciclabili, il verde pubblico e i viali pedonali, ci troviamo sempre agli ultimi posti, perché comunque troviamo che c'è ancora moltissimo da fare, e addirittura quel poco che è stato fatto a volte non risulta neanche fatto bene. I mezzi pubblici li usiamo poco perché? Perché forse alla fine conviene economicamente andare in macchina? Beh, normalmente in questa indagine risulta che sostanzialmente l'incremento che c'è stato negli ultimi 10 anni sostanzialmente non c'è stato, e rispetto in un momento come 10 anni fa di forte sviluppo e di forte incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici rispetto ai mezzi privati, sostanzialmente addirittura c'è stata una piccola flessione, ma addirittura risulta proprio che città come Roma, Milano, addirittura Catania, Palermo, Trieste, ma si accenna anche a Firenze e a Padova, c'è stata proprio una flessione rispetto al numero di viaggi che ciascun abitante o cittadino ha fatto in rapporto ai mezzi pubblici che ci sono. E addirittura, come Adico, noi abbiamo sempre denunciato che in una politica fatta di tagli, certamente il cittadino non ha mai avuto adeguati servizi, ma soprattutto i mezzi non si sono mai evoluti, e i comfort non sono mai stati comunque all'altezza di quello che è un servizio che il cittadino avrebbe bisogno quando utilizza un mezzo pubblico. È un mezzo pubblico che certamente molte volte non è così conveniente come l'auto, perché se calcoliamo quello che spende una famiglia da 4 con bambini di altezza superiore a 1 metro, certamente per una linea extraurbana di 25-30 km a volte si può arrivare a pagare anche 20-25 euro di biglietti. E quindi uno preferisce la macchina perché costa meno, perché ha tutti insieme, perché si muove molto più liberamente. Quindi forse bisognerebbe mettere mano anche alle tariffe, ma qui le aziende potrebbero dire: noi come facciamo a sopravvivere se nessuno ci paga il biglietto? Beh, normalmente noi denunciamo sempre che in una politica ed in una posizione fatta di monopolio da parte delle società che erogano questo servizio di trasporto pubblico, ma anche di tagli fatta in virtù di quelli che sono dei finanziamenti pubblici che queste compagnie ricevono, non c'è mai stata un'adeguata politica di sviluppo che vada a favorire il consumatore, perché comunque sostanzialmente vediamo che non ci sono compagnie che si fanno concorrenza, qualcosina c'è un po' sui treni, ma ancora sui trasporti pubblici sostanzialmente la concorrenza non c'è, per cui non c'è sicuramente un'iniziativa o una politica che vada ad incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, soprattutto nei confronti degli studenti, dei lavoratori o delle famiglie che sono in difficoltà, ma anche delle famiglie. Ma poi ci troviamo anche su una situazione veramente pietosa per quanto riguarda le piste ciclabili, perché normalmente rispetto a città molto importanti in Italia siamo veramente molto molto indietro, e certamente anche qui non è un dato che questo può invogliare le persone a utilizzare la bicicletta rispetto anche ad un mezzo. Sì, poi oltre alle piste ciclabili ci sono anche, credo, le condizioni delle strade normali, soprattutto quest'anno che è piovuto tantissimo. So che molti comuni sono in difficoltà, perché le buche che si sono create sono molto di più degli anni scorsi, e i soldi invece per chiuderle sono sempre meno. Beh, se pensiamo che normalmente i proventi delle multe dovrebbero essere utilizzati per fare sicurezza e prevenzione, certamente lo stato delle strade in questo senso ci fa non capire come vengono utilizzati. Ma poi volevo anche riprendere quello che è un dato molto importante, frutto appunto di questa fotografia, dove per esempio se guardiamo le piste ciclabili troviamo come Helsinki, una città molto importante, a 1500 km di piste ciclabili, Stoccolma e Hannover a circa 750 km, mentre per trovare una città italiana dobbiamo scendere sotto circa i 100-104 km, quindi c'è ancora moltissimo da fare. Ma poi anche il pubblico, in questo senso, troviamo che la percentuale è veramente irrisoria, perché sostanzialmente i metri quadri disponibili per ogni cittadino è molto inferiore rispetto a quelli che hanno i cittadini che abitano normalmente nelle città più importanti d'Europa. E soprattutto l'unico dato, ecco, che vale un po' la pena evidenziare è come c'è stata la capacità, è aumentata la capacità di depurare i rifiuti e la raccolta differenziata, che poi normalmente questa non è mai andata, purtroppo, come abbiamo sempre denunciato, a un risparmio della bolletta dei rifiuti, ma che comunque può andare a beneficiare su quello che è un po' la salvaguardia dell'ambiente. Insomma, c'è molto da fare, perché l'utilizzo dei mezzi certamente potrebbe velocizzare forse gli spostamenti, aiutare l'ambiente, ma qui serve evidentemente una politica di ampio respiro e più lungimirante forse di quella che abbiamo avuto finora. Per oggi ci fermiamo qui, Carlo, settimana prossima altri due argomenti. Grazie, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.